ad alta voce. Massimo Popolizio legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Quando il frate ebbe serrato l'uscio dietro a sé, vide nell'altra stanza dove entrava un uomo ritirarsi piano piano, strisciando il muro, come per non essere veduto dalla stanza del colloquio, e riconobbe il vecchio servitore che era venuto a riceverlo alla porta di strada. Era costui in quella casa forse da 40 anni, cioè prima che nascesse don Rodrigo, entratovi al servizio del padre, il quale era stato tutta un'altra cosa. Morto lui, il nuovo padrone, dando lo sfratto a tutta la famiglia e facendo brigata nuova, aveva però ritenuto quel servitore. E per essere già vecchio, e perché, sebbene di massime di costume diverso interamente dal suo, compensava però questo difetto con due qualità: un'alta opinione della dignità della casa e una gran pratica del cerimoniale, di cui conosceva meglio di ogni altro le più antiche tradizioni e i più minuti particolari. In faccia al Signore, il povero vecchio non si sarebbe mai arrischiato ad accennare, nonché d'esprimere, la sua disapprovazione di ciò che vedeva tutto il giorno. Appena ne faceva qualche esclamazione, qualche rimprovero tra i denti ai suoi colleghi di servizio, i quali ne ridevano e prendevano anzi piacere qualche volta a toccargli quel tasto per fargli dir di più che non avrebbe voluto e per sentirlo ricantar le lodi dell'antico modo di vivere in quella casa. Le sue censure non arrivavano agli orecchi del padrone, che, accompagnate dal racconto delle risa che se n'erano fatte, di modo che riuscivano anche per lui un soggetto di scherno senza risentimento. Nei giorni poi di invito e di ricevimento, il vecchio diventava un personaggio serio e di importanza. Il padre Cristoforo lo guardò passando, lo salutò e seguitava la sua strada. Ma il vecchio gli si accostò misteriosamente, mise il dito alla bocca e poi col dito stesso gli fece un cenno per invitarlo ad entrare con lui in un andito buio. Quando furono lì, gli disse sottovoce: «Padre, ho sentito tutto e ho bisogno di parlarle. Dite presto, buon uomo, qui no, guai se il padrone s'avvede. Ma io so molte cose e vedrò di venir domani al convento. C'è qualche disegno? Qualcosa per aria c'è di sicuro. Già me ne sono potuto accorgere, ma ora starò sull'intesa e spero di scoprir tutto. Lasci fare a me. Mi tocca vedere e a sentir cose di fuoco. Sono in una casa, ma io vorrei salvar l'anima mia. Il Signore vi benedica». E proferendo sottovoce queste parole, il frate mise la mano sul capo bianco del servitore che, quantunque più vecchio di lui, gli stava curvo dinanzi nell'attitudine di un figliuolo. «Il Signore vi ricompenserà», proseguì il frate. «Non mancate di venir domani». «Verrò», rispose il servitore, «ma lei vada via subito e per amor del cielo non mi nomini». Così dicendo e guardando intorno, uscì per l'altra parte dell'andito, in un salotto che rispondeva nel cortile, e, visto il campo libero, chiamò fuori il buon frate, il volto del quale rispose a quell'ultima parola più chiaro che non avrebbe potuto fare qualunque protesta. Il servitore gli additò l'uscita e il frate, senza dir altro, partì. Quell'uomo era stato a sentire all'uscio del suo padrone. Aveva fatto bene? E fra Cristoforo faceva bene a lodarlo di ciò? Secondo le regole più comuni e meno contraddette, è cosa molto brutta. Ma quel caso non poteva riguardarsi come un'eccezione? E ci sono delle eccezioni alle regole più comuni e men contraddette? Questioni importanti, ma che il lettore risolverà da sé, se ne ha voglia. Noi non intendiamo di far giudizi, ci basta ad aver dei fatti da raccontare. Uscito fuori e voltate le spalle a quella casaccia, fra Cristoforo respirò più liberamente e s'avviò in fretta per l'ascesa, tutto infocato in volto, commosso e sottosopra, come ognuno può immaginarsi per quel che aveva sentito e per quel che aveva detto. Ma quella così inaspettata esibizione del vecchio era stata un gran ristorativo per lui. Gli pareva che il cielo gli avesse dato un segno visibile della sua protezione. «Ecco un filo», pensava, «un filo che la provvidenza mi mette nelle mani». E in quella casa medesima e senza che io sognassi neppure di cercarlo. Così ruminando, alzò gli occhi verso l'occidente, vide il sole inclinato che già toccava la cima del monte e pensò che rimaneva ben poco del giorno. Allora, benché sentisse le ossa gravi e fiaccate dai vari strapazzi di quella giornata, pure affrettò di più il passo per poter riportare un avviso qual si fosse ai suoi protetti e arrivar poi al convento prima di notte, che era una delle leggi più precise e più severamente mantenute del codice cappuccinesco. Intanto, nella casetta di Lucia erano stati messi in campo e ventilati disegni dei quali ci conviene informare il lettore. Dopo la partenza del frate, i tre rimasti erano stati qualche tempo in silenzio. Lucia preparando tristamente il desinare, a Renzo sul punto d'andarsene ogni momento per levarsi dalla vista di lei così accorata e non sapendo staccarsi. Agnese tutta intenta in apparenza all'aspo che faceva girare, ma in realtà stava maturando un progetto e quando le parve maturo ruppe il silenzio in questi termini. Sentite, figliuoli, se volete aver cuore e destrezza quanto bisogna, se vi fidate di vostra madre, a quel vostra Lucia si riscosse. Io mi impegno di cavarvi di questo impiccio meglio forse e più presto del padre Cristoforo, quantunque sia quell'uomo che è. Lucia rimase lì e la guardò con un volto che esprimeva più maraviglia che fiducia in una promessa tanto magnifica. E Renzo disse subitamente: «Cuore, destrezza, no, dite pure quel che si può fare». «Non è vero», proseguì Agnese, «che se foste maritati si sarebbe già un pezzo avanti e che a tutto il resto si troverebbe più facilmente ripiego». «C'è dubbio?» disse Renzo. «Maritati che fossimo, tutto il mondo è paese e a due passi da qui, sul Bergamasco, chi lavora seta è ricevuto a braccia aperte. Ma sapete quante volte Bortolo, mio cugino, mi ha fatto sollecitare ad andare là, a star con lui, che farei fortuna come ha fatto lui? E se io non gli ho mai dato retta, gli è... che serve? Perché il mio cuore era qui. Maritati, si va tutti insieme, si mette su casa là, si vive in santa pace, fuori dell'unghie di questo ribaldo, lontano dalla tentazione di fare uno sproposito. Non è vero, Lucia?» «Sì», disse Lucia, «ma come? Come ho detto io», riprese la madre, «cuore e destrezza, e la cosa è facile». «Facile», dissero insieme quei due, per cui la cosa era divenuta tanto stranamente e dolorosamente difficile. «Facile a saperla fare», replicò Agnese. «Ascoltatemi bene, che vedrò di farvela intendere. Io ho sentito dire da gente che sa, e anzi ne ho veduto io un caso, che per fare un matrimonio ci vuole bensì il curato, ma non è necessario che voglia, basta che ci sia». «Come sta questa faccenda?» domandò Renzo. «Ascoltate e sentirete. Bisogna aver due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato, il punto sta di acchiapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice: signor curato, questa è mia moglie. La donna dice: signor curato, questo è mio marito. E bisogna che il curato senta e che i testimoni sentano e il matrimonio è belle fatto, sacrosanto, come se l'avesse fatto il Papa. Quando le parole sono dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo, è inutile. Siete marito e moglie». «Possibile!» esclamò Lucia. «E come?» disse Agnese. «State a vedere che in 30 anni che ho passato in questo mondo, prima che nasceste voi altri, non avrò imparato nulla». «La cosa è tale quale ve la dico, per segno tale che una mia amica, che voleva prendere uno contro dei suoi parenti, facendo in quella maniera, ottenne il suo intento. Il curato che ne aveva sospetto stava allerta, ma i due diavoli seppero far così bene che lo colsero in un punto giusto. Dissero le parole e furono marito e moglie, benché la poveretta se ne pentì poi in capo a 3 giorni. Agnese diceva il vero, e riguardo alla possibilità e riguardo al pericolo di non ci riuscire, perché siccome non ricorrevano a un tale espediente se non persone che avessero trovato ostacolo o rifiuto nella via ordinaria, così i parroci mettevano gran cura a scansare quella cooperazione forzata. E quando un d'essi venisse pure sorpreso da una di quelle coppie accompagnata da testimoni, facevano di tutto per scapolarsene, come Proteo dalle mani di coloro che volevano farlo vaticinare per forza. «Se fosse vero, Lucia», disse Renzo, guardandola con un'aria d'aspettazione supplichevole. «Come se fosse vero», disse Agnese. «Anche voi credete che io dica fandonie? Io m'affanno per voi e non son creduta». «Bene, bene, bene. Cavatevi d'impaccio come potete, io me ne lavo le mani». «No, no, non ci abbandonate», disse Renzo. «Io parlo così perché la cosa mi par troppo bella. Sono nelle vostre mani. Vi considero come se foste proprio mia madre». Queste parole fecero svanire il piccolo sdegno d'Agnese e dimenticare un proponimento che, per verità, non era stato serio. «Ma perché dunque, mamma?» disse Lucia con quel suo contegno sommesso. «Perché questa cosa non è venuta in mente al padre Cristoforo?» «In mente?» rispose Agnese. «Pensa se non gli sarà venuta in mente». «Ma non ne avrà voluto parlare». «Perché?» domandarono a un tratto i due giovani. Perché? «Quando lo volete sapere, i religiosi dicono che veramente è cosa che non gli sta bene». «E come può essere che non gli stia bene e che sia ben fatta quando è fatta?» disse Renzo. «Che volete che vi dica?» rispose Agnese. «La legge l'hanno fatta loro, come gli è piaciuto, e noi poverelli non possiamo capir tutto. E poi quante cose! Ecco, è come lasciare andare un pugno a un cristiano. Non gli sta bene, ma dato che gliel'abbiate, neanche il Papa non glielo può levare». «Se è cosa che non gli sta bene», disse Lucia, «non bisogna farla». «E che?» disse Agnese. «Ti vorrei forse dare un parere contro il timor di Dio? Se fosse contro la volontà dei tuoi parenti, per prendere un rompicollo, ma contentami. E per prendere questo figliuolo, e chi fa nascere tutte le difficoltà è un birbone, e il signor curato, le chiara che l'intenderebbe ognuno», disse Renzo. «Non bisogna parlarne al padre Cristoforo prima di far la cosa», proseguì Agnese. «Ma fatta che sia e ben riuscita, che pensi tu che ti dirà il padre?» «Ah, figliola, è una scappata grossa, me l'avete fatta. I religiosi devono parlar così. Ma credi pure che in cuor suo sarà contento anche lui». Lucia, senza trovar che rispondere a quel ragionamento, non ne sembrava però capacitata. Ma Renzo, tutto rincorato, disse: «Quando è così, la cosa è fatta». «Piano», disse Agnese. «E i testimoni? Trovar due che vogliano e che intanto sappiano stare zitti. E poter cogliere il signor curato che da 2 giorni se ne sta rintanato in casa, e farlo star lì. Perché, benché sia pesante di sua natura, vi so dir io che al vedervi comparire in quella conformità diventerà lesto come un gatto e scapperà come il diavolo dall'acqua santa». «L'ho trovato io il verso, l'ho trovato», disse Renzo, battendo il pugno sulla tavola e facendo balzellare le stoviglie apparecchiate per il desinare. E seguitò esponendo il suo pensiero che Agnese approvò in tutto e per tutto. «Sono imbrogli», disse Lucia. «Non son cose lisce. Finora abbiamo operato sinceramente. Tiriamo avanti con fede e Dio ci aiuterà. Il padre Cristoforo l'ha detto. Sentiamo il suo parere». «Lasciati guidare da chi ne sa più di te», disse Agnese con volto grave. «Ma che bisogno c'è di chieder pareri? Dio dice aiutati che io t'aiuto. Al padre racconteremo tutto a cose fatte». «Lucia», disse Renzo, «volete voi mancarmi ora? Non avevamo noi fatto tutte le cose da buoni cristiani? Non dovremmo essere già marito e moglie? Il curato non ci aveva fissato lui il giorno e l'ora